quanti film. Ma rimolando come? Facendo rimolata o cosa? Cincischiando così. Pincionciando. Lo sai già che sono andato dove mi hai mandato tu per le caviette, me le hanno preso tutte quante. Vabbè, ho visto. Proprio non per farmi gaffare tu, ma ti ha dato più di 10. No, gli ha dato 5, ho dato 50 euro. Vabbè, te l'ha pagata 10 euro. Forse è l'unico, ma non sarà più bello le bagliette lì. Ah, se va bene, ma mi ha preso anche quelle grandi, quindi mi è andato anche troppo bene, perché sono volevo regalarle. E i cani, tutti rapidi? Sì, sì, anche quelli. Giovedì danno l'ultima coppia, maschio e femmina, a Ploaghe. Ah, ok, va bene così allora, meno male che ci sei riuscito a darle, dai. Massimiliano. Positivo, mamma mia, non mi rivolga, a me non mi piace. Le cavi, Sì, sì, no, non mi piace. Ma ti dirò che non sono meglio dei crescenti, secondo me. I crescenti, bene o male, sono piccoli, curiosi, però ti musicheggiano. Questo invece basta che gli stringi appena al collo, capiscono che non hanno a che fare. Ma vabbè, ma a me quel tipo di animale così, la verità, non piace. Quindi per quello preferisco più il furetto, si assomiglia, non molto, ma comunque, lo preferisco. Tino! Ehi! Asco, c'ho un po' di soldi da investire, cosa mi dici? Io te l'ho detto, sono sempre disponibile. Gli ultimi 2 chili li ho dati stasera, ne ho già venduto 25 chili. Ma devo ingrassare però, cosa cazzo è un buon gudina, rimani più povero, no? Devi ingrassare. Già ingrassi, sti lavagni. No, l'hai compreso, investire soldi. Ce ne parliamo. Deve crescere il grossometto, mi capito? Vabbè, dai. Ah, mi preso a mangiare, dai. Così mi si trombo, domani. Anda bene. Lo stai usando, T? Quello, il Midland, il Lincoln. Sì, da. Lo sto facendo andare. Perché? Perché c'è me. Beh, sono contento. Così c'è l'altro, l'ho parcheggiato, dai, in sun bike. Oh, va bene questo, ottimo. Vai Massimiliano Bulldozer. Io sto cercando un tapirulato elettrico. Se me l'avete detto, da prima. Io l'ho comprato, me da poco, 300 euro, super professionale, della Pro, non me la metto, Pro. Ma quelli che ci sono lì da Decathlon? No, questo era di una ragazza che era entusiasta, ma i primi giorni, poi devo seguire, si è straccata, non facevo altro che pulirlo. Siccome ne avevo già un altro, uno l'ho regalato e questo che me l'ha venduto mi ha detto se lo volevo per 300 euro, ho guardato il prezzo, 1200 euro costa. È un bel costo. Ah, questo è professionale, mi sembra che ha 16 programmi per fare tutte cose, ma è già effetto, non è che... Ehi, no, già lo so, costano un bel soldi. Costano un bel soldi. Va bene, guarda, se vuoi che funzioni bene quello, ti regalalo a mio padrino. Ce l'ha, ma addirittura me lo vuole dare lui a me. Dopo invece l'ha messo, lo sta usando un'altra persona. Perché lui non lo tiene. Vabbè, lui l'ha comprato, ha detto no, non faccio niente, gira gira, lo vendo, ha detto non la metto, vuoi? E invece poi gli ha detto no, lo uso io, va bene. Lui ci vuole quello rinforzato, con la barra d'acciaio sotto. Ma cosa, il segreto è che non devi rimanere fermo nel tappeto, devi mettere con i piedi laterali, devi far andare il nastro, dopodiché che è avviato devi iniziare a camminare tu, perché se no, se parti da fermo sottosforza troppo il motore, capito? Sto scherzando. No, perché l'ultima volta che l'ho visto c'era anche Massimiliano, per poco non ce la facevamo anche entrare nella macchina. Avanti Massimiliano. Chiaro, se me l'ha detto che eravate i tre della combriccola. No, veramente noi eravamo in due poi si è avvicinato lui, quindi siamo diventati tre. Senti, io non lo stavo manco riconoscendo, l'hai riconosciuto Massimiliano, perché c'aveva una macchina da zingari. Ma vai, quale aveva? Era una macchina nera, una Lancia, Massimiliano. Mi pare che c'è niente, c'è quella vecchia, là, non è un vecchio, cos'è la K, come ti chiamo? Ma della Citroën? No, c'è un Lancia, come Citroën? No, nera, ce n'è una nera della Citroën, quella stile anni 40. No, allora tu non l'hai ancora vista, guarda che c'è una Lancia K, bella internamente, ma esternamente di quelle vecchie, boh. Aspetta, che colore era sul celestino brutto? E scura era, boh, non era nera, Massimiliano. Sul blu scuro è quasi nero. L'ho visto tutto io, perché non mi dici cosa va. Se l'ho fatto solo per quello. Vabbè, internamente già è. Sull'automobile 10, ho portato il cane, vieni o non vieni. Dai, vi lascio 10 minuti e vado a portare il cane. Sì, internamente è tutta accessoriata, marce automatiche, bim bum bam, però sempre sembra una macchina da zingari, dai. Oh, io vi lascio 10 minuti, scendo un attimo il cane e rientro, dai. Riprendi, Massimo. Non ti preoccupare, vai. Senti, comunque era... io penso che hanno avuto una quindicina d'anni con la macchina, credo. Io ho capito qual è, qua c'è la casa sua. Ciao Gianni, ciao. Ciao Claudio, anche a te. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai, io vado a mangiare la pizza, ci sentiamo. Andare, ciao, a dopo. Avanti, tu carriera. Ciao Gianni, ciao, a dopo. Bene. Questi bezzone che aveva ammazzo. Quanto sono arrivato lì dalle sue parti, Massimiliano? 25 quasi. Ah, andare. Aspetta che faccio una piccola prova, Guarda adesso se ha cambiato la radio. 1, 2, 3, prova. No, la radio non ha cambiato. No? Bene. Allora c'era qualcosa che non andava toccato. Aspetta. Ho aumentato ancora un pochino, Guarda un po', 1, 2, 3. Adesso ho aumentato la radio, sì. Ha aumentato la radio? Sì, adesso sì. E il segnale? Non ha aumentato niente? Perché se ne sto andando più volte d'ingresso, Certo, ho aumentato anche il segnale. Prima di 25, ci sono quasi 30. Aspetta un attimino. Gli metto 5 watt, Forse si sporca adesso, guarda un po'. No, non si è sporcato per niente. Guarda se aumenta, aspetta. Prova, 1, 2, 3, prova. Ma ancora buona la radio. Ci picchia, un muletto e sta andando meglio forse. Boh, forse perché la sto utilizzando. Aumento ancora un pochino. Prova, 1, 2, 3, prova. Guarda a vedere. Adesso si è al limite. Va bene, allora abbassiamo la tua, guarda un po', sono abbassato, Ma così va bene. Aspetta, guarda un po', si è aumentato il radio. Sì, leggermente. Va bene, cosa dici, distorce? Signor vento, distorce? È un bel vento, cioè, speriamo che non piova stanotte, perché per domani tutto il giorno adesso un bel di acqua. Bene. Guarda se distorce, non si vede. Adesso sono al limite, credo, Sì, c'è proprio al limite, sì. Allora passiamo, aspetta. Adesso un pochino. Di watt. Eccolo qua. Adesso siamo quasi 6 watt di pilotaggio. Ma c'è ancora al limite però, Ma niente, bisogna abbassare un po' la radio. Magari abbassate la prima radio, sì, così va bene. Sì, funziona, funge. Va bene, io ho voglia, sono fare i bulti. Sì, mi ricordo che avevo anche il B2, adesso non arrivano a azzeccare. Però, se ne era un po' ferma, Vabbè, ascolta, ma tu il capitolo ce l'hai, elettrico o magnetico? No, elettrico, se ha 16 programmi è elettrico, tu metti il primo programma e lui parte con piano piano, dopo credo 5-6 minuti di camminata aumenta, poi aumenta ancora di più, sino a farti una certa velocità, poi ti abbassa per farti riposare, poi ti rialza. Ma io guarda, credi, dopo un po' che lo stavo utilizzando, il secondo programma non sono riuscito a finirlo. Addirittura. Però, ma è vero che fa un po' a capogiro quando te lo scende? No, a me non mi è successo, però ti provo, perché dipende come... Allora, io ho iniziato come prova libera, nel senso che non ho impostato i programmi, ma ho impostato come volevo io, quindi a camminare, quando me lo sentivo aumentavo sino a una certa velocità, poi magari riabbassavo, e stavo per, se ti posso dire, 20 minuti, 25 minuti, sempre così. Dopo un po' di tempo che l'ho provato, allora ho provato i programmi. Ti dirò che sono più faticosi i programmi, che nonostante tutto ti danno la possibilità di riposarti, perché prima è una camminata veloce praticamente, ma non mi ha fatto quell'effetto. Un po' di gente me lo dice, quello dal lavoro se l'ha preso il professionale, mi sono pagato 1.900, una cosa del genere. Ho comprato tutto, vabbè, le scarpe da corsa, tutti questi cosi, e mi ha detto che, vabbè, non è giustamente come camminare su strada, mi ha detto quando me ne scendo, prima di scendere devo proprio riprendere piano fino a farlo fermare sul tappeto. Lui si forma direttamente sul tappeto e aspetta quei 15-20 secondi prima di scendere, perché se non lo fa a basilica un attimo. Non lo so, Svea, dipende dalle persone, credo, perché io non lo faccio fermare così, non che finisce il programma, quello ti dà il tempo di... l'ultimo te lo fa come passeggiando, capito? Ma in realtà è che quando si blocca non cadi, perché sennò sei veloce, scatto, perché è un casino, ti blocchi di scatto. Invece così ti dà la maniera che magari, che adesso sei a 10 km orari, da 10 ti passa 8, 6, 5, andando e abbassando, capito? Sì, anche questo dice che è così, capito? In base a quello degli impulsi, lui fa le salite, le discese, ti fa riprendere, però quando poi hanno detto mi devo proprio fermare, cosa fa? Lui lo fa andare, lui, il programma sicuramente sarà quello, lo fa direttamente fermare sul tappeto, capito? Non lo ferma lui il tappeto, cioè il programma finisce, in poche parole sta camminando, sempre di meno, sempre fino a fermarsi il tappeto. Sì, però mi hanno detto, perlomeno il tecnico che l'ho venduto, me l'ha sconsigliato di fare così, mi ha detto guarda, quando sei, per dire, 2-3 secondi prima di bloccarti, fai di tutto per metterti nelle parti laterali in maniera tale che il tappeto si blocchi senza te sopra, perché sennò va in sottosporto, anche in partenza è così. Non lo faccio, capito? Non te lo so dire come funziona, non l'ho mai avuto, quindi. E vabbè, adesso dobbiamo un po', se lo trovo, così non lo dico nuovo e via. Sì, diciamo che, allora, se sei motivato, te lo consiglio. Se lo vuoi giusto per averlo e quando ne hai voglia lo fai, è meglio lasciare perdere, perché non c'è, sempre conservato, per un idrati. Io avevo anche quello con la calamita, quello a forza di dirti, nel senso che tu devi spingere tu il tappeto. Una faticaccia, guarda, credimi, se l'ho mollato subito, l'ho buttato. Era nuovo, ce l'ho buttato. Però sì, quelli sono i migliori, quello magnetico, quelli sono i migliori. Capito? Non so, per il ritmo con quello lo fa andare come vuoi. Ma il fatto è che con la scusa che devi spingerlo, cioè tu devi avere le mani sempre attaccate alla... non è che corri normalmente, devi sempre... come che lo stai spingendo? Intanto so. Venga qua, vabbè, ok. Sì, vabbè, poi... rispetto a quelli che sono in palestra ce ne sono tanti così magnetici, capito? Eppure cose, anche quello, però lo dici tu, vabbè, le mani, perché giustamente devi questo vuole far girare qui il tappeto, va. Oh, va bene, va. Avanti di qua, poi dove lavora, no? Mamma mia! Manca Filippo Biasi! Che idea lo sta facendo, ce l'ha in camera sua? Pure lo piega, almeno lo mette qua a mezzo alle balle, comunque. Va bene, c'è più posto, va bene così. Tu immaginati che sopra c'ho tre ciclette, tre, nuove. Non so se le hai viste Massimiliano, volte si è salito. Di cui una è Ittica, può essere Ittica, non lo so. Fa di tutto. Fa braccia, muove, fa, tira, molla, beda, di tutto. Da hobby shop, può essere. Comprate tutte e tre da hobby shop, una barca di soldi. Guarda, io ce l'avevo fino a poco tempo fa, forse la settimana scorsa, mi ha chiamato un tipo, adesso ce l'avevo, gliel'ho venduta. È una sempre non ha passione. Io ce l'ho lo stesso, la cicletta, ma non il braccio. Ce l'ho buttata dentro la nostra bufina, da quella che ha condizionato, ti segna le calorie, tutte le dosi, con l'acqua di manali, no, c'ha dei sensori, tutti in alluminio, e ti... no, non mi piace, a me non mi piace quella là, poi ha di rigurri. Ma boh, signori, dai, che ne approfitto per farmi la doccia, che così metto la componente anche da sopra. Ci sentiamo più tardi, se coincide, dai, non ti prendi qua. Ehi, mi... adesso fra un po' passo le 8:30 a cena, poi me ne entro qua, che c'è la replica di Juventus Inter, ci pigliamo la tavola tolta e sono due. Ciao T, buona cena, buon tutto, vai Massimiliano. Ciao Tino, ci sentiamo, vai. Buona vocetta, buona carica, buon tutto, buon lavoro per donare. Ciao. Ehi, ciao. Ma la replica lì, io poco fa che l'avevo sbucciato un po' di carciofi, li ho messi a cucinare, poi sono salito qua, luce, tutto. Adesso scendo giù, li preparo, un verde, copro il fuoco, senza buoni battato. Stasera tanto non so se ne mangio pasta, eh. Mi sto un po' vanno alla dieta. Guarda Massimiliano, io a pranzo non ho mangiato di pasta perché c'era ancora un po' di ceci, abbiamo fatto la cecciata anziché la favata. Stanotte pasta integrale, pernette integrali, perché l'aria compra quella, pernette integrali che sono molto buone, quella di Cellino con le zucchine, capito? Fatte in padella le zucchine saltate, aglio, prezzemolo, cipolla, capito, un po' di peperoncino e via, si condisce le pennette, sono molto buone e basta. Poi mangio una frutta, ma ne entro qua in stanza che c'è la semifinale di Coppa Italia. Speriamo che ci avrà la mezza alle balle, il tinte, l'uscì. Sono finiti gli yoghi, burro dai chili. E niente, mi guardo la partita, poi sicuramente entrerà Antonio, ci facciamo due chiacchiere. Ma la sera ci sono sempre, sino alle 10:30, sino a quando si colica Antonio. Claro, noi mangiamo sul tardi, già lo sai. Quando mangio, poi salgo alle 10:30, laggiù. Mi metto un po' nel letto, mi riposo un po' la schiena. Guarda, già io non ero il curco, cioè non è che andavo al letto fino a 11:30, mezzanotte. Sono a letto sbagliato, guardavo un po' di TV e poi vado al letto, va. Capito? Cazzo. Ma vabbè, me la zucchina non è Biasi, quindi. Ma la pasta integrale già è buona. Noi non la prendiamo, è la verità. Mangiamo la pasta, quella classica, senza essere integrale. Vediamo cosa ti vuoi mangiare, un gatto o un cappuccio? Massimiliano, io devo continuare. Devo continuare, capito? Sono già 12 kg che sono sceso, già mai visto. C'ho un giucciardo, però non mi interessa. Sto meglio con la schiena e tutto. Sono più veloce e burro con un di Giaffi. Vabbè, mi va piano ancora lì, sì. C'è una certa età, capito? Ti puoi fare male. Vabbè. Sono più maleggiato. No, l'aria fissata, disintegrale, passa integrale, tutte cose. Vabbè, però mi sta aiutando tantissimo anche a me, perché io sono un grande mangiatore di pasta, capito? Quindi stavo ingrassando troppo. Io ero 92 kg, non ti dico altro. 92 kg, capito? E adesso sono 80, un po' più di 80, quindi devo scendere esattamente come mi ha detto l'ortopedico a 79. Quando arrivo a 79 devo stare stabile, infatti per me sono finiti i giochi degli ammazza caffè, del vino, birra e tutte cose. Io prendo solo caffè e succhi di frutta, praticamente quelli acce, quella roba lì. Niente roba gasata, nulla. Ho già dato Massimiliano, canto un aggiugiucciardo, ma un bel paro. Come c'è la carica, non mi dorme tanto la giambuca, la sede. Vai, gira le bibirite, vai. Castrani mi salvia però, dai, una cos'era? Ma quel bicchiere li ho già visti, lì si metteva la vodka prima. Attiviti la porta che sono... Magna! Oh, bombolino! Chiudi la porta, no, mi vai, ama. No, guarda che sta facendo ginnastica in camera sua. Avanti, bombolino! Capa, dai, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Sono appena arrivato. Ehi, purtroppo stai lavorando, cerca di arrivare prima. Ehi, mangia tranquillo, intanto poi vado a mangiare io. Mangia, ci sentiamo dopo, che intanto sono qua in stanza, che c'è la partita, Rai 1, così me la guardo, ci facciamo due chiacchiere. Ciao, Antonio. Una carichetta. Ma hai detto che c'è l'arrivo? Oh, ma è del Milano l'altro giorno, gatto a Sassuolo, lì a Giussa, gatto qua. Ah, ragazzo Sassuolo, un grottone, ha fatto 4, zin, quanto ne ha fatto? Baglia, si può mettersi. Sembrava giocando a pallacanestro, una squadra di Serie B, Sassuolo, Spezia. E basta, Sassuolo, Crotone, Spezia, Benevento, tutte squadre sono salite alla Serie B. Ho pigliato come Parigi, dall'Atalanta. No, stasera, allora, la settimana scorsa c'era Inter-Juventus di Coppa Italia e ha vinto l'Inter, ha vinto la Juve 2-1. Adesso c'è Juventus-Inter in casa, capito? Se perde di nuovo l'Inter è fuori. E in caso contrario deve vincere 2-0 per poter passare alla semifinale, in caso contrario. Quindi me la guardo. E poi c'è l'altra semifinalista, chi è? Atalanta? Non me la metto. Non mi ricordo, Atalanta con un'altra squadra. Quindi poi ci sarà la finale. Questa è la semifinale, chi vince va in finale, capito? Coppa Italia. Non me lo vado a guardare giù. La partita non piace a loro. E come la metto? Non la giù confuso perché la televisione, Rai 1, Rai 2, Rai 3 non prende. Qua prende, il canaletto non prende. Ma sì, devi guardare il deviatore di stanza, quegli affari che c'ha per deviare il segnale, non lo so, le presse. Guarda se mettilo diretto, anche a me faceva così, qua io non volevo niente. O prendeva la Rai o prendeva Mediaset, o prendeva la Rai. Mi raggio staccato che su Gozo, che va in ferro, no? Capito? Dove c'hai una scatola dove c'è una centralina e c'è un partitore per tutte le stanze. Dice Boga Nero, poi un barilotto, un maschio e femmina, mettilo diretto, funziona meglio. No, non posso mettere diretto qua, perché sennò poi Gaia anche me la suona la fede, capito? Ah, no, io l'ho messo diretto, c'era da questa, quella di Laria è qua. L'ho messo diretto qua e le ho mandato lo spezzone lì, ho messo un attimi e ho mandato lo spezzone a lei. Il camera da letto mia non è, il camera da letto mia è fatta per fa così durchi, no? Vabbè, dalla televisione, cosa ne va la televisione? No, io ce l'ho la televisione, il canale letto ci vuole, non la si dice. Io ce l'ho qua, poi c'è la radio, c'è questo 42 pollici qua, ma prende bene, parla via, io parlo la via, io la sera qua me la guardo il canale letto, la televisione, ho visto, sbagliato, sono sotto una dischiera, quindi me ne sono un po' rilassato dal letto, però telefono, mi chiamo Rai 1 Radio RT, ehi, ma già lo so io dove è il problema. L'altro giorno sono salito sul tetto e c'è il cavo della TV che è tutto imbucciato, della casa tutta a cuore. Devo cambiare il cavo, devo cambiare. Vabbè, noi ci abbiamo centralizzato, no, a me quel problema era. Mi perdeva il segnale, deve essere quel partitore, l'ho eliminato. Ho comprato una tita da Fusaro e ho messo l'ingresso a me e l'ingresso all'aria. No, io me la vado al salone, Massimiliano. Ma ne vado dal salone alle 1:30, io non alle 2:15, ma sono andato dal salone. Sono andato con i carmi, alle zingaro e alle ciabelli. Sempre la stessa storia, non passerà mai. Sono 3 anni a casa di zinco, apro luci e non c'è niente da fare, non dormo più. E anch'io sono così qua. Anch'io sono così, io mi corri con mezzanotte, la mezzanotte mi dice, a volte mezzanotte e mezza, io la mezzanotte e mezza, poi io me la mia sveglia ogni giorno, anzi come l'ho fatto, sono, Ma io anche quando non lavoro, io esagerando, arrivo 6:30 sono già in terra, no? Io la notte la televisione che non dormo più. No? Poi magari sto guardando la televisione, mi giro, mi rigiro, oh, non parla, mi lascio di bizzarro. Neanche io sono così, Massimiliano, io non ho mai avuto sveglia, non c'è niente da fare. La mia sveglia è il cervello, non c'è niente da fare. Io per 35 anni a quell'ora aprivo gli occhi e mi alzavo, proprio, ma mi potevo coricare anche alle 2 o 3 di notte. 2 ore, a quell'ora, boom, aprivo gli occhi, come che, capito, il cervello proprio mi dice ti devi alzare, svegliati. Non c'è niente da fare. E ancora oggi che sono 3 anni e più a casa, sempre la stessa storia, che sia di festa, sabato, domenica, santo si incazza Anna, ma cosa ci fai in piedi? Cosa ci faccio? C'è qua il bar della piazzetta che oramai mi conosce. Io a Risetti, c'ho qui anche lì, prendimi un caffè, macchiato al giornale, i sigaretti. E c'è così, cosa faccio? Non ce la faccio a stare a casa. Mi trattengo magari una mezz'orettina lì, passo da Roberto in officina e poi vado a casa, porto il cane, sempre le matesse da entrare. Quando tu non c'hai un impegno, guarda, fare sempre le stesse cose, un giorno ti riscatto. Ma scendo giù e proviamo un po' di fare qualcosa, ok? Ehi, Massimiliano, per quella cosa che ci siamo detti, fammi sapere. Se non dovessi andare in porto, pazienza, non è un problema. Capito? E io ce l'avevo l'impegno, Massimiliano. Io l'impegno ce l'avevo mio cognato, però con questa pandemia io non sto pianando da nessuna parte. Qualche cosettina così le faccio, ma niente di che. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ok, intanto qua io lascio tutto acceso, tutto. Oddio. È tutto il tuo lato, che sono unito atteso. E poi sono qua. A dopo, ciao. Va bene. Vabbè, mi ha scritto quello nero, e quello nero, e poi mi ha scritto ci penso per tutta quella proposta là, no? Ok, va bene, ciao, saluto anche Antonio che tanto già mi sta ascoltando, e tutti gli altri ascoltatori, va? Ciao. Ciao Massimo, perdonami, ma ero abituato a dire tutto acceso, invece a giudizio veniva una giura stessa di lì, l'altro sono tutti trovati. Ciao Massimiliano, dai un bacio a Gaia, saluta Daniela, dopo, ciao. Ciao Massimiliano! Magna, tu magna! Ehi, saluti, mi ha giubilato un panino! Ha giubilato, fammi, oggi mi ho messo a posto un po' il mobile. Ha giubato il buco. E mi ho passato il cavo. Ma è più ordinato, tu dai, poi quando facciamo quel lavoro dell'antenna vediamo se ho qualcosa io di più bello da sistemare lì, lo facciamo grazie a Dio, non ti preoccupare. Eia, ok, piano piano, e ho chiesto la casa di la casetta in canalave. Non lo so, qualche mobilettino bello dovrei averlo su Massara, dai. L'altra base con la scrivania è troppo grande per te, quella lotta Massimiliano. L'avevo appena presa, l'ho comprata l'anno scorso. Avrei messo le mie basi qua, perché le radio sono nuovamente aumentate, questi baracchini, e quindi non c'era più posto. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, tanto che anch'io vado a mangiare un boccone e poi già sono qua in stanza, dai. Ok, a dopo, mangia tranquillo, ciao. Aggio già mangiato, aggio. ho preso un panino. Ok, c'è problema. Ehi, ehi, no, io niente panino, quanto. Fette biscottate integrali, grissini integrali, cracker integrali, tutta roba integrale, pasta integrale, se no non andiamo avanti, anche perché sto facendo ovviamente un pochino di palestra, quindi mi voglio mettere bene in sesto. Così, sciogo biogenico. Cosa palestra, come ti posso io, faccio sempre i fammi, faccio, sono sempre corrente e non mangio un casino. Lo so, tu sei giovane, io sto andando a 61, sei giovane tu, io a quell'età tua non avevo mai niente, però io se ingrasso mi fa mai la schiena, tu capito, ero 92 kg io, sono 80, quasi 81, quasi 12 kg sono sceso, capito, quindi va bene così, sto molto meglio, cammino meglio, respiro meglio, mi muovo meglio, sono più ginnico, non ce la facevo, davvero, mi alzavo tutto messo male, camminavo male, tu arredosto. Così sto molto meglio e sto facendo un po' di riabilitazione, diciamo, per le ossa, così leggero qua in via Carlo Felice, capito? C'è un amico e quindi sto andando lì due volte, tre volte alla settimana, lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma giusto così, tanto per fare un po' di movimento, niente di che, non oggi di diventare culturista io. Vabbè, io mangio un manco di te, quindi sempre con queste bombole, attento a fare niente. Sta bassona, sogo, doccio qui da palla, sogo. Sicuro che capiata uno lo capoteggio. Vedi, poi ti manca il respiro, Antucas. Invece io, senza capottare, posso sollevare bene il piede adesso. Invece prima voleva fare il mio assalanca, capisci? Uia. E a tu, a squadra di 36, la giovinti zicco più di te. Lo so. Vabbè, però, siamo piano. Già si va, dai. E quando eri giovane, non penso che pure tu già eri voce. E insomma, la mossa la naso, io mi ha Giuseppe Bugatta, bulla vai, va Giuseppe 61 anni, non ti preoccupare. Ancora qualcosa la sappiamo fare, però ti ripeto, non è questione di, sto scherzando, di avere, si tratta di della salute, tanto, capito? Io ho grossi problemi alla schiena e quindi il peso mi comprime e mi fa un bel male, invece così sto veramente bene, veramente bene, sono contentissimo di avercela fatta, prima come sai bene, sempre in giro, a destra, a sinistra, bevi, mangia, e mangia e bevi, invece adesso i giochi sono finiti. Lo so. Purtroppo, detto, cioè, vabbè, già, lo so. Io mi sento bene in forza, di abituato sempre a righen di bomboli. Mi piace il burro là, ragazzo, va. A me mi piace pure i sci, fammi un bel po' di chilometri a piedi, a me mi piace proprio. L'altro giorno l'ho fatto, ero da parecchio senza farlo. No, io a piedi già esco tutte le mattine a piedi, da qua a casa arrivo sino a Carbonate, più di una volta giù in fondo, più di una volta sono andato anche in via Roma dell'Aria, non c'è problema. Però ti ripeto, adesso lo posso fare, prima no perché mi faceva male un bel po', poi ho avuto un problema, ho avuto la fascite plantare proprio dal peso, la tallonitemi, quindi dovevo portare le solette nelle ortopediche nelle scarpe, adesso invece cammino molto meglio, senza solette, senza niente, capito? Va bene, Anto, dai, ci aggiorniamo dopo, già sono qua in stanza, non ti preoccupare, ti devo guardare la partita. Neci lo derby. Ehi, a divizi intanto. deve vincere, ma favorita la Juventus, perché hanno perso in casa, quindi adesso stanno giocando in casa della Juve, vediamo, se vince la Juve è matematicamente eliminata, se vince lei deve vincere con due gol di scarto, quindi diventa un po' grinazzata. Comunque, la palla è tonda, dice quello, Antò, vinca sempre il migliore, non ce n'è problema per me, l'importante è che vinca qualcuno. Ci aggiorniamo dopo, ciao! Ci aggiorniamo dopo, cosa da giudizio io? Cosa da giudizio io un po' di tempo fa? Però che chi si recupereggia, mica che uscì. E infatti già stanno giocando bene, sono due squadre abbastanza forti. Quindi ti ripeto, ribadisco, vinca il migliore. Tanto a me Busciacca non mette a nulla, assolutamente. Però se vince la mia squadra sono contento, su quello non c'è dubbio. A dopo, ciao! Ehi, ok, cazzo va? O sono io che non premo bene, Sta riuscendo a tratti a tutti. No, ogni tanto fa così, fa, o sono io che non premo bene. Adesso stai andando bene. Cappa, me l'ho fatto già un paio di volte. Infatti io ti posso vedere una cosa. E mi dico se a Capurue ti mando una foto, a chi non ha già compreso nulla, non lo so. Ok. Sì, io ho mandato, già sono qua. Mi te l'ho mandato. Sì, la sto guardando, aspetti, dico cos'è. Hola. Va tutto va bene, ragazzi, ma non c'è va in tria. Prima che un pezzo. No. È diretto con quella lì. L'altro non interessa. Voglio capire che cos'è che c'è un bombellino. Adesso te lo spiego su WhatsApp, aspetta. Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. Vabbè, cara, come ti andendo la battida? Attenzione, dieci, c'è qualcuno? Ehi, la partita è iniziata. No, ma sto guardando di là, che è più grande la TV. Vabbè, non è entrato nessuno. No, ancora no, non è entrato nessuno. Infatti fra poco si è arrotto. E mi c'è Goku. Ehi, ma sto guardando di là. Tanto, stare qua. Se devi coricare, te coricati che sei stanco. Ehi, a cappa. Ah, che bello, non c'ho più quel capo di capo in mezzo agli yo-yos. Adesso è fatto bene, dai. Almeno sono anche più tranquillo che non frappi niente. A chi si gavi sono un po' gustrani. Dove l'hai messo? Dietro? L'hai fatto entrare da dietro la scrivania? Ma che scrivania? Dal mobile! Adesso mi pongo la scrivania, non faccio più io, no? Che... Ah, uno di quei mobiletti, ho capito, fatto a mensole, là. No, è un mobile, basta, me l'ho portato da un'altra casa, da casa di babbo. Lì ti devi mettere come due lati e due basi, capito? Quella grande all'altezza col microfono, e bisogna farla tu. Bisogna farla, prendere le misure e farla bene lì e attaccare la parete. Cappa, non volevo attaccare la parete la cosa, non è casa mia, però No, devi va a bucchino, due mensole con i piedi, mi capito, una bassa e un'alta, baracchini sopra e l'altra sotto, basta, aperta il cavo che entra da dietro. Sì, comunque adesso ti va un po' meglio, va. Cavolo. Così non hai problemi, capito? Cappa. Gli alimentatori. Cavolo, se avrei avuto posto l'alimentatore proprio gli avrei tolti, cavolo, da qua. La via Bucci, più lontano possibile. Io ce l'ho così, Antonio, devi avere posto. Io col dito sollevo salvavita, si accendono gli alimentatori, adesso sono spenti gli alimentatori perché radio alimentate a 12 non ce n'è, è tutta a 2,20, questa va a 2,20, HF non ne ho, quindi capito, però quando sono gli HF e altri, ma è radio a 12 volt, io sollevo salvavita, si accendono gli alimentatori, automaticamente il quadretto si illumina e io vado ad accendermi le radio tranquillamente, però devi avere posto per fare cose del genere. Vabbè, a Sant'Arrangia, addio. Ciao, Altri. Qui, nelle misure ti fa... Uno sgabello devi fare, mio cottonino. Uno sgabello però con due ripiani. Due paletti e due mensole e uno sgabello, mentre lo vuoi chiamare, una gadrea, una cosa del genere, con due ripiani, mi. Stavo in sotto a misura, la grandicciata, impregnante, liscio, mordente, marrone, giusto così, per essere una levigatina, cosa ci vuole a fare? Poi Tonino c'ha tutta l'attrezzatura, è che io non ne ho di attrezzatura, tocca a farti raccioli, è vero, se no te l'avrei fatto io, non è cassata a fare. Sei capa, già lo so, da bianco io c'ho la... l'acqua calda, tocca fare Sant'Arrangia di, a manca lavarmi un poco, non veniva. Cazzo Antonio, ma perché non aumenti questa potenza, gà? Minchia, Santiago 5 stai arrivando. Ma infatti io non ho detto niente, ma mi stava arrivando 8. Ho detto, boh, magari, boh, pensavo che ero io addirittura. No, non sei regolare per niente, non Tony. Cazzo ti porti appresso il QRM? Il tuo segnale è 9,20 qua, si Santiago Zinco. Non ci avete le stazionarie, non mi interessa le stazionarie a me. C'è qualcosa che non va, non c'entra niente. Non è che il PL ti dà le stazionarie, controlla se è attaccato bene il PL, se no c'è qualche problema. Non può essere questo segnale, scusa. Va bene così. Oh, cazzo, questa va la mania di pulire un gare era zero, la potenza era zero, che tu gazzi. Intanto se vuole massima potenza, se mi sentite il campo. Ma ti sentite, se la togli tutta la potenza arrivi 5, c'ho 3 di QRM, a ve la vai. Ci ha sollevata la potenza, dove va un raio la radio? Io ce l'ho al massimo la potenza, to. 12 watt modulati 15, cosa devo abbassare? Più basso di questo? Adesso l'ho messo al massimo io, vedi si abbasso. Sì, ma sono potente. Bianco, per me che vado giù a lavarmi. Ci sentiamo tra un po'. A tu, adesso me ti arrivo. Sì, sì, prima mi arrivavi 8, così. Però cavolo, questo, boh, pensavo che ero io magari. Ti sentivo in mezzo al QRM. Adesso sei tornato tu. Sempre io sono. Vado, vai, avanti, vai. Anche perché ti smorza molto la radio, capito? Così è più bella anche la radio. No, io non la tocco mai la potenza, intanto non devo attaccare niente, quindi va bene così. K. No, io mi sto guardando la partita dentro, è finito il primo tempo. Anzi, quando inizia il secondo tempo, poi me ne rivado dentro. Intanto, sono già le 10 meno 10. Beh, dopo mi vado qualche canale io. Al limite. Vediamo cosa c'è di novità. Boh. Sembra che c'ho la batteria. Boh, aspetta, passo un poco. Ecco, così meglio va di radio. Sì, ma no, anche prima andavi bene, non c'è problema. No, ma che mi entra di innesco. Così va bene. Sono troppo vicino al microfono, ecco. Ehi, ehi, ah, no, già va bene. Va bene. Tane più 3, anche questo, batterie, ne mangia un bel, perché è un bel amplificato. mangia un bel scappa. Sì, ma voi, visto che con Mike normale originale suo, esco bene lo stesso. Anch'io ce l'ho il microfono, ma io lo faccio per comodità, Tony, perché ho tutti i microfoni in fila e stare con questo microfono in mano è una rottura di scatole, capito? Solo per quello, se no il gas si esce bene anche con col microfono normale. Sì, in effetti, quindi questo è il bassillocca, ecco, io adesso sto muovendo e il mare non è messo nel suo posto, perché ho abbassato il tastino. Schiacci e parla, qui c'è fatto giustamente come dicevi tu, con il microfono in mano, schiacciare, colla, mi si secca la mano, grazie. No, anch'io è comodissimo, più 3 è comodo, ma anche di più 5, solo devi spingere la leva verso l'estra, però già tiene bene. No, ma il tanner va bene perché abbassi il tastino del lock, è abbastanza morbido il mio. Quando l'ho preso tutto revisionato, diciamo, tutto pulito, lubrificato, eccetera, è morbidissimo. KK, vabbè, a lavoro, com'è? Ho ancora di malattia, sì. No, me l'ha dato un mese, non l'ha dato. Il 19 devo andare di nuovo al Ghero a fare la visita dal dottor Tresurdi che mi ha operato. Oh! Sì, io dovrei entrare il giorno 22, ma non ci rientro qua. Perché ho i muscoli infiammati, infatti mi ha dato queste pastiglie al cortisone e piano piano mi sta passando, anche prima avevo due bassi dovevo bussarmi, mi adorore. No, ci rientrai, non rientrare, goditi un po' questa convalescenza e poi rientri e vai a chiudere, però devi essere sicuro che puoi rientrare, perché basta il minimo sforzo, ve la vai, ci vuole tempo qui per metterti a posto, anche mio fratello è stato operato lì del disco, se ne ha fatto 3 mesi a casa, vabbè, non ne ha fatti più nulla, comunque se ne ha fatto 3 mesi a casa. Ma io ho letto anche su internet, e poi l'ho detto anche la dottoressa, mi ha detto sì, è vero, i punti che hanno messo a me praticamente si assorbono da soli, e c'è scritto su internet che i punti che si assorbono da soli ci vogliono 8 settimane, sono 2 mesi, grazie al mio commesso fatto che mi sono operato. Infatti te lo sto dicendo, mio fratello ci ha fatto 2 mesi e poi ha fatto un po' di fisioterapia anche perché ha diabete, capite? Poi va per 40 anni che sul casino dell'ASI, quindi e siccome va in pensione a fine anno, ma ha detto non ne ha fatti più nulla, capito mi hai? Perciò riguardati e si abbiglia villucci. Sì, in effetti ho addosso vado in ferie e non rientro più, capito? Eh sì, e tu tra l'altro mi ha detto che la dottoressa e tu se vuoi metterti ci vuole un po' di più di tempo, comunque. Sì, in effetti mi ha dato sino al 20, che sarebbe sabato. 21 domenica dovrei entrare il 22, ma io 22 non ci rientro. Un prato qua me lo faccio. E poi si vedrà, quando sto bene, che mi sento bene, sì, intanto scusi, non posso fare, c'ho il foglio, quindi. A parte che non lo potevo fare prima, io ho 3 ermi, però non mi danno fastidio. Sono cardiopatico. Diabetico, se mi hanno se vuole di più, l'ernia. Sono tutto un altro guascio, guarda, che ridai. Comunque, questo problema l'hanno risolto, io ho fatto lo stesso quello che mi ha operato, perché lui viene, lo stesso mio uomo te, al nero, da fuori, capito? Fuori alla Brianza. Infatti l'ho chiamato, ho detto, guarda, ci vediamo il 19 che sono lì al nero. Quindi sera. E quindi sì, così, metto, adesso loro dietro i problemi che ho io e metto, non c'entra niente nel disco, tu c'hai così, i muscoli infiammati, nei gluteri, quindi mi ha detto, vedi che ti faccio la vista, poi anche il fuoco dell'ospedale che ci ha lasciato a me Emanuele, c'è scritto, dopo un mese farò una visita dal neurocirurgo, cioè quello che ci ha operato praticamente. Quindi c'è lui che mi ha operato e mi va bene, mi guarda lui, mi controlla e va bene. E se mi dà 100 euro, mi metto il suo orario, 100 euro va bene, non c'è problema. Ma ci vuoi chiedere di no, l'importante è che vada tutto bene. Sì, ma infatti è che mio fratello siccome ha diabete e quindi tende di più a guarire. Perciò casino. Vabbè. Purtroppo questi gai, io sto tentennando, mi aiuta molto perché ho dimagrito tantissimo e sto migliorando di nuovo. Però rimane il fatto che anch'io devo fare una bella visita, stabilire se ne reddisco e farmela togliere. Sì, perché anche il peso della persona contribuisce, capito? Io purtroppo non posso ancora camminare perché quando faccio 150 metri, io facevo 10 metri e mi devo pesare, perché questo dolore è forte. Adesso che un po' mi sta calmando, così quando poi mi faccio le mie passeggiate, 1-2 chilometri, se me ne frega. Mi piace camminare. Ma il collega che si è operato anche lui, che è un costo dottore qua, mi ha chiamato, ho terminato come va, e ho detto, se non avete mai uscito. Non è vero, cazzino, dopo ho operato, che ho fatto venire il disco, dopo 2 giorni stavo saltando. Ma vai, ci viene a culo, ho detto vai. Vai, ti ha detto una valla, ho già saltando. Il mio fratello è ginico, ragazzi, è un 80 di Cristiano, ho già... è magro, sta bene, ha sempre fatto sport, mano venuta da mano. Quando si alza la mattina ancora è tutto va ridotto, poi un pochettino inizia a star bene. Non è così, no? Lascia perdere. Vabbè Tony, sta iniziando la partita, me ne vado nel salone, dai. Ti lascio in compagnia di Antonio, già ci sentiamo dopo se ci siete. D'accordo, buona partita qua, adesso ci sentiamo. Ciao, saluto a Correa, alla prossima. Ciao, grazie. Antonio, ci sei? Sì, aspetta che sceso giù, già sale subito. Vabbè, prima del QX, quando chiama, già sono qua. Ehi. Io già vi sento da lontano, ma... c'ho la televisione piccola qua e... la vedo male, capito? Ne vado dentro. Ciao, a dopo. Ok, ciao. Aspetta, Tonino. Tonino, ci sei? Eia, eccomi qua. Oggi siamo brutto. C'avevo l'altro palato acceso e trovare l'innesco perché le antenne sono vicino. Scappa. E vuole. E addirittura fate il suo gioco. Ci sono antenne vicino al baracchino per forza. Quindi. MPR, come cavolo si chiama? Strano, no, il mio non innescano. No, pure non lo so tu. Anche se è qua, ma non fa di nulla. Non fa di niente, No, ma io l'ho fatto, siccome è troppo attaccata vicino, questa era 20 cm da lontana all'altra, capito? Se lo schiaccio innesca. C'è il casino, se è acceso, è fatto lo spento. Oh, strano, vai. Forse perché gli arriva a tutta birra, forse, cioè gli arriva il segnale troppo forte per quello che fa così, se no in genere no, non avrebbe dovuto, perché sono frequenze molto diverse. Lo so, entra in armonica, capito, troppo vicino. Va bene, sto aspettando che passa questi dolorini e poi vedi cosa faccio. Un palo di 8 metri e una bella antenna che mi sono preso. Cosa? Quanti ci hai preso? Una mantola 5. Fatta. Perché stai facendo male tu? Antonio. Eia. Ah, se ne andate mi fate di tubo fumatura, era un microfono. Il microfono è tutto, ma che radio, boh. C'è il microfonino un pochettino, sta dando fastidio. Senz'altro. Niente, 8 metri di palo, tubo grosso di acqua, 8 tirati, piuttosto ce l'ho, basamento di cemento, un piccolo pinto faccio, e poi vediamo quanto arriva. Bomba, tranquillo che bomba. Niente da togliere a quella energia, niente da togliere, però pure quella va, tranquillo. Sei capa, ma questa energia la lascio lo stesso a me, solo che l'altro la metto al centro. Ah, sì. Così tengo 2, poi ci sono 3 antenne. Chi ti dirà? Non so, io non c'entro con lo spaziale. Vai bene, capo, se hai trovato quella, poi chissà, dura una vita. Sì, di nuovo, bella, veramente, sono troppo soddisfatto. Sì. Orge Sigman, sì. Cosa usa cos'è? Un altro Sigman, già 5 per gli altri che è 4. Grammato ma 1 che è 4. Sì, ma solito la Mantova 5 è un prodotto Sigman. Dovrebbe essere. Sulla scatola non c'è scritto. No, non è che guardato, ti giuro. Tu pensa con Energy che so io, ma cosa vuol dire che si chiama Energy? Boh. Sì, l'hai preso la DBC. Capa, infatti nella scatola c'è scritto. Io manco ci guardo a queste cose, capito? La mia curiosità è subito aprire la scatola, togliere fuori per piazzarla e via. No, io guardo tutte le caratteristiche. Oh, vabbè. Comunque, ti sto domandando se va bene, sì. Allora, voglio, c'è 9:20 qua. Già va bene, dai. Sì. Gabba, 9:20 e Radio 5. A voglia che arrivi bene. La radio è abbassata. Ecco, adesso un po' più forte. Una, due, tre, prova. Adesso va bene. Non c'è più nessuno. No, c'era Claudio, c'era. Non lo so, no. No, Claudio sta avendo la partita, non l'ho detto. Già lo so, già. Stamattina ha fatto un bel commissione, un bel. Mamma mia. Qualcosa c'è, bisogna pur farle, il popolo bisogna pur farlo purtroppo. No, io sono obbligato a farle, per due sacrosanti motivi. Uno, perché la mia salute ci tengo. Due, perché mi serve per la pensione soprattutto, per dire la verità. Ah, che bebe, cavolo. Adesso poi te ne vai in pensione del lavoro e tira avanti. Ho capito, tira avanti e tutto il resto raggio zero. Cappa, e guarda a vedere. Adesso va bene. Sì, perché quando cambio mano sicuramente non lo premo bene e rompe. E tu, con la mano che premi, che non premi bene, con l'altra ti do uno schiaffo. Ma di solito, cavolo, di solito è molto sensibile questo microfono. Boh. Dentro il numero, chiamo il mio microfono a tavolo, va. Bravo, Peter, così arrivi forte anche tu. Raga, pure qua già. Ma io, è normale, non metto quando mi curico. È da tavolo quando sono seduto, così almeno. E niente, tornando al mobiletto, là, io mi sono fatto un mobile grande. Ho sportello tipo portascarpe, scarpiera, l'altro ho fatto i scaffali, poi sono scaffaletti quadrati, metto tanta roba, uno sportellino che appoggio il microfono, il barattino, il telefono, il carico batteria e tutto quanto, se devo saldare saldo da qua sopra, tipo tavolino, poi posso chiudere sul portello, poi c'è un altro basamento lì a tutto dritto, che c'è tutto il baracchino eccetera, e poi c'è l'altro ancora sopra. Alto 1,40 per 40 di profondità e larghezza 90 cm. Dovrebbe essere questo. Penso di sì, 90 cm, 1 metro. Loghi, è un casino, non c'è posto di. Non c'è posto di niente, non c'è. Io Manuel gli ho mandato un mobiletto, ma così feo, ma brutto, tutto si muoveva. Ma io voglio mettere questo, ma per misura, l'ho tutto smontato, l'ho rifatto, ma sai quanto è uscito carino. Beh, me lo posso immaginare. Io ho varie attrezzature circolare, la trocatrice, già ne ho, avvitatore, c'è tutto, non manca niente, vite non ne parliamo, quindi, mi Claudio l'ho visto che è venuto qua, con la trocatura è un bel. Sì. Cavolo, fai bene a tenertele. qua, non posso buono in nuda, cavolo, se già me l'avrei comprata qualcosa. Poche cacciaviti che ho, qualche cosa, così. Proprio poco a poco. Ah, ti ho tutta una via, qui. C'è un po' cazzo di babbo che è grande. Guarda, da poco. Da poco mi sono preso con un motore grande con due ruote smeriglio e ho comprato anche una pulivapo. Ma non lo faccio più nulla. Mi sdraio. Sta uscendo. Io c'è un brutto fortunato qua, tocca pure la bicicletta in hoc in casa, perché non c'ho magazzino, non c'ho niente. E che piano abiti tu? Secondo piano. E tanto è culo la bicicletta. Pesanti burro.